Ho messo a posto le chiavi di casa, che ti arrabbi se prendo le tue. Ho messo a posto il tavolo in cucina, ma apparecchierò ancora per due. Ho messo a posto il tuo burro cacao, ma non è ancora il momento per mettere a posto te. Ho messo a posto pure il nostro letto, che sembrava un campo di battaglia. Ho messo a posto pure il guardarobe, ed ho buttato via qualche tua maglia. Ho aperto pure tutte le finestre, ma non è ancora il momento per mettere a posto te. Mettere a posto te, che sei il centro di questa casa in periferia. Te che mi hai letto e mi hai riportato in libreria. Ma è dal mese scorso che non metto a posto, perché non accetto che sei andata via.